Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. È lunedì e come sempre cominciamo la settimana, speriamo con buone notizie da parte dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che è con noi al telefono con il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Sì, ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora, buone notizie? No, questa volta a non dare buone notizie ci ha pensato il rapporto Osserva Salute, presentato qualche giorno fa, in cui purtroppo nel 2015 è stato calcolato o annunciato che l'età media, sia per gli uomini che per le donne, per la prima volta nella storia è diminuita. Esattamente da 81,3 anni per gli uomini e 86,1 per le donne, è diminuita a 80,1 e 84,7 rispettivamente. Tipo un anno in meno di media. Eh sì, diciamo che per le donne si tratta di circa 8 mesi, per gli uomini circa 9 mesi, e quindi anche 10, però insomma un periodo abbastanza significativo che va un po' anche a controcorrente rispetto a quelli che sono i meccanismi di aspettativa alla pensione, di quelli che sono i meccanismi, anche i trend che fino ad oggi sono sempre stati in salita e che per la prima volta nella storia invece sono stati rivisti al ribasso. Ecco, questa cosa qui, a parte che mi preoccupa un po', dico, penso che oltre alla preoccupazione c'è anche un po' di fastidio a sentire queste cose, vuoi forse per la preoccupazione che c'è in generale per l'inquinamento ambientale, vedi casi dell'acqua in Veneto e altre cose, è solo per quello che è calata l'aspettativa di vita? Allora, facendo un'analisi dettagliata su quello che è il rapporto, volevo dare prima qualche buona notizia e poi venire su quelle che sono delle risposte che vale la pena dare su quello che è la domanda che hai appena sollevato. Allora, è migliorata la qualità della vita, sono migliorate le persone che fanno attività fisica, sono diminuiti le persone in sovrappeso, ma sostanzialmente queste buone notizie le troviamo tutte nel nord Italia, mentre nel sud il fenomeno di accorciamento della vita media ha subito un dato molto più significativo. Quindi sostanzialmente, analizzando il dato, bisogna ammettere che riguarda più appunto i paesi e le isole che del sud rispetto a noi. E ribadito come Trento sia la città, sia la regione, sia la città che sostanzialmente si mantiene sempre a questi buoni livelli. Poi, per quanto riguarda invece le ragioni di questo accorciamento, sicuramente inquinamento e tante altre cose ci stanno, ma fondamentalmente la cosa che determina di più il dato è il fatto che la gente comunque ha tagliato sulla prevenzione. Una prevenzione che è stata tagliata per due aspetti: la prima per effetto di quelli che sono gli ultimi emendamenti governativi che hanno ridimensionato un po' certi esami che prima i medici di base predisponevano per prevenzione, pensiamo quella alla prostata, la mammografia, il colesterolo, eccetera; dall'altro perché comunque curarsi sta diventando un costo nel momento di crisi, chiaramente le persone hanno tagliato anche nella salute. Ecco, quindi questo ha a che fare con l'economia del paese. Ha a che fare con l'economia del paese, però mi fa incavolare quando poi vediamo i nostri amati politici che dicono che grazie ai loro interventi e all'efficienza della nostra sanità le liste negli ospedali si sono notevolmente accorciate. Non si sono accorciate perché le cose vanno meglio, ma si sono accorciate perché ci sono meno persone che prescrivono sostanzialmente gli esami. Ecco, questo è quello che dobbiamo dire. Comunque, per una visita oculistica si aspetta sempre un mucchio e certe volte, devo dire la verità, tra ticket e quant'altro, quasi quasi conviene andare privatamente che te la fanno subito. Ma io sicuramente sono d'accordo con te, però anche è inaudito che oggi, quando le persone hanno qualcosa, devono prima passare al medico di base andare in ospedale, con in ospedale farsi l'esame, con l'esame tornare al medico di base, con il medico di base farsi l'impegnativa per lo specialista, andare dallo specialista, tornare al medico di base con il referto, con gli esami poi decidere dove andarsi a curare. quindi è una sanità molto complicata che è vittima delle lungaggini, ma soprattutto dei costi. Purtroppo brutalmente lo manda privatamente dà dei vantaggi, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche. Poi sai, il fatto che comunque questo governo è andato a rivedere tutti quelli che sono gli esami di routine determinati su quella che è la prevenzione, come abbiamo accennato il colesterolo e altri esami, tipo la prostata, la mammografia, eccetera, certamente espone il cittadino a maggiori malattie, quindi mette a repentaglio la salute e purtroppo lo orienta ad andare verso le cure private e questo sai che insomma noi siamo contrari, anche se purtroppo è l'unica alternativa che abbiamo. Ecco, ritornando alle aspettative di vita, noi parliamo ovviamente di vita media, ho letto che ci sono molti ultracentenari, quindi se da una parte ci sono delle persone che vivono oltre i 100 anni, dall'altra c'è qualcuno che insomma gli 80 non li vedrà mai. Sì, 3 residenti su 100.000 hanno oltre 100 anni, quindi questo certamente è un buon dato. Bisogna dire che dal 2002 al 2015 sono più che triplicati, anche questo quindi dà certamente aspettativa. Nel complesso, ecco, rimarchiamo come nel 2015 per la prima volta nella storia l'età media si è accorciata, quindi come detto ci sono da fare molte riflessioni, ma il dato non è certamente un dato che può renderci felici. Speriamo che insomma le cose cambino, ci sia più attenzione nella prevenzione, sappiamo che prevenire è meglio che curare, è un detto che ha funzionato molto bene per tanti anni e adesso ahimè non sembra più così. Vedremo se il futuro ci riserverà delle ulteriori sorprese. Grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, che ritroveremo in un prossimo appuntamento. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.